Canto ottavo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto ottavo. Era già l'ora che volge il disio a naviganti e intenerisce il cuore. Lo dì ch'han detto a dolci amici addio, e che lo nuovo peregrin d'amore punge, se ode squilla di lontano, che paia il giorno pianger, che si muore. Quand'io cominciai a render vano l'udire ed a mirare una dell'alme surta che l'ascoltar chiedea con mano. Ella giunse e levò ambo le palme ficcando gli occhi verso l'oriente, come dicesse a Dio, d'altro non calme. Te luci sante, sì divotamente le uscì di bocca, e con sì dolci note che fece me a me uscir di mente. E l'altre poi, dolcemente e divote, seguitar lei per tutto l'inno intero, avendo gli occhi alle superne ruote. Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero. Io vidi quello esercito gentile, tacito poscia riguardare in sue, quasi aspettando pallido ed umile, e vidi uscir dell'alto e scender giue due angeli con due spade affocate, tronche e private delle punte sue. Verdi come fogliette, pur monate, erano in veste che da verdi penne percosse traean dietro e ventilate. L'un poco sopra noi a star si venne e l'altro scese in l'opposita sponda, sì che la gente in mezzo si contenne. Ben discerneva in lor la testa bionda, ma nelle facce l'occhio si smarria, come virtù ch'a troppo si confonda. Ambo vegnon del grembo di Maria, disse Sordello, a guardia della valle per lo serpente che verrà via via. Ond'io, che non sapeva per qual calle, mi volsi intorno e stretto m'accostai, tutto gelato alle fidate spalle. E Sordello anche. Ora avalliamo mai tra le grandi ombre e parleremo ad esse. Grazioso fia lor vedervi assai. Soli tre passi credo ch'io scendesse, e fui di sotto, e vidi un che mirava pur me come conoscermi volesse. Tempera già che l'aer s'annerava, ma non sì che tra gli occhi suoi e miei non dichiarasse ciò che pria serrava. Ver me si fece, ed io ver lui mi fei. Giudice nin gentil, quanto mi piacque quando ti vidi non esser tra i rei. Nullo bel salutar tra noi si tacque. Poi dimandò, quant'è che tu venisti a piè del monte per le lontanacque? Oh, diss'io lui, per entro i luoghi tristi venni stamane, e sono in prima vita, ancor che l'altra sia andando a questi. E come fu la mia risposta udita, Sordello ed egli indietro si raccolse, come gente di subito smarrita. L'una Virgilio e l'altro ad un si volse che sedea lì gridando, «Su, Currado, vieni a veder che Dio per grazia volse!» Poi, volto a me, «Per quel singolar grado che tu dei a colui che sì nasconde lo suo primo perché, che non gli è guado, quando sarai di là dalle larghe onde, di a Giovanna mia che per me chiami là dove agli innocenti si risponde. Non credo che la sua madre più m'ami, poscia che trasmutò le bianche bende, le quai convien che misera ancor brami. Per lei assai di lieve si comprende quanto in femmina il fuoco d'amor dura, se l'occhio o il tatto spesso non raccende. Non le farà sì bella sepoltura la vipera che Melanesi accampa, come avria fatto il gallo di gallura. Così dicea, segnato della stampa nel suo aspetto di quel dritto zelo che misuratamente in cuore avvampa. Gli occhi miei, ghiotti, andavan pure al cielo, pur là, dove le stelle son più tarde, sì come ruota più presso allo stelo. E il duca mio, figliuol, che lassù guarde? Ed io a lui, a quelle tre facelle, di che il polo di qua tutto quanto arde. Ed egli a me, le quattro chiare stelle che vedevi staman, son di là basse, e queste son salite overan quelle. Com'io parlava, e sordello a sé il trasse, dicendo, «Vedi là il nostro avversaro», e rizzò il dito perché in là guatasse. Da quella parte, onde non ha riparo la picciola vallea, era una biscia, forse qual diede adeva il cibo amaro. Tra l'erba e il fior venia la mala striscia, volgendo ad or la testa al dosso, leccando come bestia che si liscia. Io non vidi, e però dicer non posso, come mosser gli astor celestiali, ma vidi bene e l'uno e l'altro mosso. Sentendo fender l'aere alle verde ali, fuggio il serpente, e gli angeli di ervolta suso alle poste, rivolando uguali. L'ombra che s'era al giudice raccolta quando chiamò per tutto quell'assalto, punto non fu da me guardare sciolta. Se la lucerna che ti mena in alto truovi nel tuo arbitrio tanta cera, quant'è mestiere infine al sommo smalto, cominciò ella, se novella vera di Val di Magra o di parte vicina sai, dilla a me che già grande là era. Chiamato fui Currado Malaspina, non son l'antico, ma di lui discesi. A miei portai l'amor che qui raffina. Oh, diss'io lui, per li vostri paesi giammai non fui, ma dove si dimora per tutta Europa che non sien palesi? La fama che la vostra casa onora grida ai signori e grida la contrada, sì che ne sa chi non vi fu ancora. Ed io vi giuro, s'io di sopra vada, che vostra gente onrata non si sfregia del pregio della borsa e della spada. Uso e natura sì la privilegia che, perché il caporeo lo mondo torca, sola va dritta e il mal cammin dispregia. Ed egli, or va, che il sol non si ricorca sette volte nel letto che il montone con tutti e quattro i piedi cuopre d'inforca, che cotesta cortese opinione ti fia chiavata in mezzo della testa con maggior chiovi che d'altrui sermone, se corso di giudicio non s'arresta. Fine del canto ottavo.